Capitava pure la moglie, se ne abbigliava con suo, purtroppo siamo alla due, non si può dire, non si sa quanto dure, purtroppo. Va benissimo, ormai, ha finito di soffrire. E si conferma, tu capite di soffrire. Vabbè, non ti costruisci, non fumare, ti fatti male, non fumare, mi fai fastidio, no, manco pratica, ma mi passava. Dopo non c'è questi problemi qua, la sigaretta ti ammazza, quanto tempo ti ammazza? Sì. Io per fortuna ho di nuovo stato di comincio con la tromollata. Idem, io ho smesso quasi 17 anni, al 2008 adesso. Purtroppo è così, non si può fare nulla. Sì. Quando diciamo ma devi andarmi, se poi di no, Io ormai mi sono già d'opere. Sono presa. Non sono soltanto anima, sai su. Corpo rimane qua. No. Si lo sa. No, non lo so. No, sono andato a trovarlo in camera mortuaria, non c'era più, ma non c'era domenica. Sicuramente era sopra, era al posto, una camera vicino al bruciatore. Ah, l'hanno cremato? Deve essere che l'hanno fatta in tutti i giorni. Allora si sono navigati a casa. Non lo so. Non so nulla di nulla. Perché un lucro costa, Quasi 3.000 euro. Più soldi che avresti fatto. Però nemmeno alla finita di vita mania. Ho prendo poco spazio. Dentro l'urna. Prendi poco spazio, allora. Se vuoi che mi sa, se no non metti in quei docoli piccolini, e ti porta a posto. Ma si conferma, è proprio gusti. Io credo che così non si può fare. Beh, diversamente non puoi. Oh, non puoi far no. Bene che mi stai raccontando, sì, sono passati di là, qua. Non so quanto arrivo da te. No, va a vedere. Guarda. Ma perché c'era così? Ma se cambia, da così. Da così cambia qualcosa. Ma pochettino. Ma è 9.15 a 9.20 sembra. Vabbè. Non c'è bisogno, ho tolto sui benzini. A metà. Tra 10 watt. Sì, no, va bene. No, mi ha tolto. Queste radio sono quelle, tutte SMD, non si viene a nulla. Io ho sempre preferito l'analogico, digitale non mi piace. Io sto usando Josh. Vabbè, già andrà bene, ci vede, arrivi benissimo, anche tu sei 9.15, 9.20 modulato. Sono stato sulla 10 watt, sono andato un frattempo, da TV, sono su 10 watt. Sì, 9.20, sì, dai, 9.20. Faccio la foto, sono in rosa, ho misurato, su 10 watt, su 10 watt. Non andrà bene. Ho tutto all'inizio. Sì, bisogna fare i buchi. Non stato mai buttato, quindi. Fai il passaggio, vedremo, quanto sì, vediamo un po', riprova. Guarda, vedo. 9.25, sì, perché facciamo poco le referenze che hai chiuso. Non fa benissimo, non voglio. Poi mi ha buttato il microfono l'MP5 ha aggiustato il sapere. Ah, buono buono. Io ho l'MP4 adesso. Gli ho attaccato qua. Stanno più qua che ce l'ho fatto, ma vado avanti, sto preparando l'MP5. Ah, ma così lo prendi? Non ho dato uno sguardo, posso uno sguardo, ma aspetta uno, quando si può portare le cose, l'affare, il piatto, vedi come fare. Che lo strumento? Lo strumentino. Che rosso. No, io le metto più qua. Questa la ponevo in altalino. Il primo che avevamo modificato. Siccome la carcassa era vecchia, poi Claudio mi aveva regalato un microfono nuovo, questo qua, le medie più 4, e ho messo la scheda vecchia qua, in questo baracchino, ma in questo microfono. C'è la scheda vecchia dentro, modificata. E adesso lo devo stigliare nello stacco, questo baracchino. Lo metto quello superstar. Sì, di poco, mi piace più poco. Ma cosa mi sono pensato un signore per la pizza? Ma da piatto? Era un inizio, a voi, la giornale, mi sono avuto nel mezzo di un migliore, lo sto giornale, a forma. Ho trovato il capo, allora il capo un po' rosso. Ho cambiato il capo, ho messo giù il capo. E gli arrivi bene, sto a Puglia. Bene, bene. Da sotto alla grande. E poi c'ho anche i vicini, dai. Alla fine il segnale conta molto. Quello che conta la radio. Da sotto un attimo. Lo prendo subito. Qui. Tu sai, sì. E da subito no, io sono qua. Ma lei ci come lo vedi? Sì, adesso. E vabbè, se non ti ripisavi tu, pure io mi chiedevo la tabacchi. Ma ma io ci sono riprendendo lì, da casa. Non mi devo fare tre mesi con il sonno. Quindi penso le tre e mezzo, però abbiamo una lavata, colazione, tutto canto, ci fate i quattro, la di Curucani. Ai quattro e mezzo ci vuoi appoggiare in macchina. Ai dico, ma come ci sono in chili? Sì, vabbè, il lavoro, vedo che ci sia. Breccolo! Ma non lo so come la insomma, non è manco. Io una volta che arrivo lì mi busto il pane, faccio orare, ma ci vuole al tempo. Avevo quei gusti di dire, cattivare il geniso. Alle 10 e mezza iniziamo a bustare alla grande, poi iniziamo a pesare, mi carico la macchina. Alla 7 e 9 sto già facendo il primo giro. Mi faccio i primi tre negozi e un bar, poi rientro alla base, scarico il pane avanzato. C'è il reso là, mi carico la rimanenza di Osilo e io l'ultima mezza giù finito, avanti break. Buonasera, ciao Luca, ciao Cattore. E dunque stai sempre infornando il pane, dai. No, non sto infornando il pane, io sono l'autista, ciao Mari. Già ho capito, sono l'autista, dai tuo figlio, già ho capito, dai. Benissimo, allora Cattore, buonasera, ben stato. Buonasera, grazie già. Mi sono stato dello Skype. Adesso ti ho chiesto un'informazione. Io hai preso uno Skype per isolare, nero. Così, non l'hai preso, non mi ricordo te. Non ho fatto nulla. Non ho fatto. L'altro giorno stai parlando, hai preso una bolletta spray per isolare, per isolare diciamo. La bolletta del comunale. Ho fatto la spray di Brescia. Esatto, non me l'hai presa. Ah, come? Hai la bolletta spray di comunale. Che domani se non vogliamo non faccio una cosa che mi serve beh Luca e allora facciamo comunque Graziano è stato fermato, è stato lo dovevo creare perché io stavo a sto. Ho fatto una roba da fame al cimitero. Quando dice che dovevo fare il cielo su di vino. Lo aspettavo in sala mutuaria e invece sono scesi da altra parte. Appunto ho chiesto al cognato e mi ha detto no, l'abbiamo lasciato su nel forno produttivo che l'ha cremato. Dico, io penso che si giù l'abbiamo cremato, Ok, Luca, buonasera, ti voglio una cosa. Ancora c'è quella ragazza che fa le pulizie, bassottina, bassolotta. E dove, Mari? E dove? Dove sei tu? Tu dove sei? Se non mi sbaglio, Borgiano sei? No, la Spano. Via Civitavecchia. Quella sala lì la pulisce ogni mattina, Antonio lo altro vedi. Ah, la Spano, basta così. Ah, ho capito, una traversina, sì. Ho visto c'è il panificio, qui c'è la Rubini, ce l'hai, giusto? Esatto, bravo, proprio quello. Ah, io pensavo da Oggiano. Da Oggiano io quando lavoravo, andavo a Cedolo, appunto c'era il signore, facevo le pulizie, c'era una bella passettina. Una bella passettina meglio di sole. Avanti il sole. Le scaricano su direttamente, capito? Mi sono andato su questa, io lo so. E anch'io l'ho convinto laggiù, invece no. Appunto, c'è il bagno, ho preso il caffè e stavo aspettando. Aspettando, sono entrato dentro. Ho fatto il giro e non c'è, Allora, aspettate poi mi sanno che stavo scendendo da su, da su, per farlo da su. Da quello che via Nacere, da lì messo là dietro, dove c'era il bruciatore e via. L'ha preso e depositato dentro, va. E poi così in giro, penso in settimana l'abbiamo cremato, penso. Se l'ha messo dentro è un gelo va veloce, dai. Bene, un attimo qua. Via. E com'era? È riconoscibile, rimarito? Com'era? No, io non sono andato a camminare perché mi fa male vedere, io meglio che non ricordi com'era, capito e basta. Diciamo io con Gassano ci conosciamo a piccolino perché eravamo quasi vicino. Io abitavo a Teresa adesso, comunque ci conosciamo con tutta la famiglia e così via. Quindi mi sono ricoverato, io sono anche a casa sua. Mi aveva chiesto un'informazione, sinceramente il marito, sinceramente io non l'avevo neanche riconosciuto, magro, la faccia tirata e senza pancia. Ma adesso il dottore mi ha dato le pastiglie perché sto scendo questa pancia qua, perché era gonfio, e mi ha appunto, mi ricordo, mi ha detto, guarda ma se lo vedi, no, ti ho la ricetta e se prendi questa pancia, no, ma io le prendo, dai tranquillo per te. Se c'è qualcosa, io se voglio scendere già cammino più di parecchio. Se mi scendo la pancia di animale dove non mi interessa, poi devo sai, non mi cura per andare al medico, non mi va mai prendere medicinale da uno e dall'altro, perché ognuno ha le sue patologie, e grazie a me aveva abbastanza patologie, da più di 3.000 ricoverati. Di più, perché io lì ho tutto registrato il cellulare, ho anche tutte le chiamate, tutto quanto, anche tra poco è finito tutto perché sto a vedere mi fa male sinceramente. E non credo così, no, ma terminato il soffrire, dai, perché sta soffrendo, anche se non faccio vedere, sta soffrendo lui, soffrendo la moglie e così via. Avanti il tocco. Normale, adesso non posso dire, non soffro più o non faccio niente. Non ho piangi con la sorella di domani che tranquilla. Esatto, io sono detto sinceramente bisogna piangere chi sta nascendo adesso, non chi sta andando via. Bisogna piangere chi sta nascendo, i bambini piccoli che non sanno la vita come sarà, capito? Quindi poco a poco qualcosa abbiamo fatto, cerchiamo poco a poco, ha fatto dei figli, si sono grandi, c'è qualche riporto e così via, capito? Sappiamo sui bambini piccoli che non sanno cosa è la vita, cosa è di in avanti. Beh, davanti in questo male come sta? Si è piaciuto? Dopo sì. Casino, Mari. Vabbè, questa pensione, Mari, come procede? Tutto bene, mi sto riposando. Oh, mi sono stato per le feste, ancora c'è il cervello, la levaglia, la testa, io le feste del motore, perché mi stavo le tre, il tempo fa denuncia, il caffè, la musica, non ci scivo da casa. Le oggi non dico alle tre, ma alle 5 sono gentili, queste volte, alle 5 sono gentili. Mi ha detto che il caffè, sì. La mattina abita il bimbo, vabbè, c'è un problema con la madre di mio nudo, dunque venne lui a compagno della madre, la figlia veniva come in giro, non sa che sia stata, gli trovai qualche amico, faccio le commissioni, ma non mi posso aiutare, là, mi sto riposando, già ho dato, Luca, già ho dato, anche ho regalato anche 2 anni nello Stato. Un ragazzo anche 2 anni nello Stato, vabbè, pazienza, siamo sani, ci arriviamo a vedere, allora tutto. Ah no, questo non la pensione. No, io domenica sera, perché io non la cellulare, non faccio fare la mia moglie, capito? Io ce l'ho, sono ignorante. E il coso arriva tutto con la mia moglie. Domenica sera c'è il bonifico della pensione, c'è il coso del cellulino, dai. Domenica sera, capito? E riprendimi, capito? Poi riprendo, c'è una forza in banca, io ho la banca, capito? Comunque domenica sera c'è già la pensione, diciamo. Ma tu la sei, Banco di Sardegna, sì? No, sono fatto San Paolo. Ma Banco di Sardegna è ancora casinata ancora di più. No, io c'ho la Febanca, quella che c'è su che non perde la fine, ma non ci vado male, perché io faccio anche tutto dal cellulare, capito? Bonito, ci pagano tutto dal cellulare, non posso, non ci vado, se no che non c'è qualcosa che mi interessa, che devo chiedere, così, e ci salgo, però non ci sarò mai su in barca. Ho lanciato la comunità, faccio tutto con il cellulare. Avanti Luca. Stato a voi, fedi il tuo cellulare, via. Che poco in contatto invece. Contatti, saluti. Sì, Mari, dai, sto. Appena finisco lì, poi vado a farmi altri lavoretti, dai. Che mi faccio uno stipendietto ogni mese. Vabbè, dopo 2 mesi, dai, appena. Poi già il secondo stipendio. Stipendio, ma qui su via. E poi mi faccio quei piccoli lavoretti che so fare. Ma sono una signora appena traslocato vicino a casa. Sta sistemando un po' le cose che deve sistemare, là. Tipo piazzare lampadari, e poi ho sistemato delle bajour, poi ho sistemato. Smontato le vecchie, e poi ho sistemato tante cose, là. E anche, così, ti fate i complimenti, tu sai fare un sacco di cose, e niente, sì, cioè, va bene, dai, andava avanti, storia. Ciao, e Ciao Luca. Ci sentiamo alle prossime. Ti volevo dire, fino a quando c'è da lavorare non fare Luca, c'è sempre qualcosa in più, capito? Tu riesci a fare quello che è lavoro tuo, il lavoro con l'altro, se riesci a fare qualcosa è meglio per te. Più c'è uno meglio è, ti saranno fino a quando la senti. Quando te la senti ti calmi e ti basta tutto io, capito? Purtroppo è così. La vita è dai. Ciao Luca, ben sentito, alla prossima se uccide. Ci sentiamo, saluto una persona anche per me come per te. Comunque mi servono 9, quasi 9:15 qui al tavolo. Dammi il cane di controllo, grande. Sì, anche tu Mari, dai. Ciao Autore, alla prossima. Buona carica. Sì, anche tu Mari. Guarda, mi asta, facciamo una provettina, io sono al minimo, so. Adesso il vato al massimo, guarda adesso. Tu sei 9:10, appicchi positivi, arrivi bene, allora, è bella, va bene. E anche tu, dai, stai abbastanza benissimo. Abbastanza bene, dai. Ok Luca, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Sì, ciao Maria, alla prossima, ciao.